Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Dagli europei di calcio, da allora faccio sogni impuri. E che bisogni? Balotelli nudo nel mio letto. Colpi di fulmine, a Natale, al cinema. Siamo qua, Natale, le nostre bambine, diventiamo nonni. Amore, ma tu dove sei? Ricordate quest'uomo? Rieccolo. Quest'anno è pronto per un evento che cambierà molte vite. Paolo, riesci a non combinare altri casini? Questo è il cinepanettone che è stato, che è tuttora ampiamente pubblicizzato per queste feste di Natale. Questo si immagina, si pensa, per lo immagina e pensa l'industria cinematografica, che sia il companatico degno degli italiani da mangiare assieme al tacchino, insieme alle multistrato lasagne al forno, insieme ai panettoni, ai torroni e ai cioccolatini. Io questa mattina vorrei dare un senso, so che sarà molto raro che persone stiano attente di fronte alla radio, prese come saranno agli ultimi ritocchi, perché crisi o non crisi, il Natale è Natale e non ci possiamo togliere dal respirare, possiamo essere noi i peggiori, più impuniti laici, i più ferventi credenti, il respiro del Natale vale tutto l'anno e quindi non possiamo assolutamente farne a meno, quindi nel bene o nel male, nel piccolo, nell'alternativo, nel tradizionale, saremo intenti a fare qualcosa che comunque dia un senso a questa giornata, che è fatta anche di apparati, è fatta anche di tradizioni, è fatta anche di quell'inseguire il tempo che ci dà l'illusione che il tempo non ci sfugga mai, nel ripetere e ripercorrere continuamente, ritualmente, ogni anno gli stessi passaggi. E quindi cosa si fa questo pomeriggio, mentre le mamme sono lì a confezionare tortellini, mentre i padri danno l'ultima mano di vernice dorata alle palle dell'albero di Natale, mentre i figli stanno lì pronti, attenti per vedere quello che ci sarà sotto l'albero, mentre quelle persone che sono cresciute, che di queste cose ormai hanno perso il senso profondo e misterioso, sono comunque lì a aspettare una serata che perlomeno non gli squillerà il telefonino per le solite consuete rotture di scatole, perlomeno le persone si defileranno, cominceranno ad arrivare quegli SMS a catena, tanti auguri con le stelline, con le costruzioni e via dicendo, e forse anche su Twitter si farà qualcosa. E cosa si fa? Si guardano i film, si guardano su DVD, si guardano quelli scaricati tarocchi da internet, si guardano quelli che passa la televisione, si guardano quelli che vengono programmati nelle sale cinematografiche. E quindi oggi noi vi daremo un'idea, una sfumatura che fa parte del ricordo natalizio, di quello che è il Natale visto dal cinema. Metta giù il coltello, niente! Niente, è stato nel buio, ma è solo un goccio! Poi adesso... Fermo! No, lo sciacquiamo! È il tacchino della vigilia! Lo so, ma lo sciacquiamo, non ha assorbito, signora! Fermo, assassino! Ma non l'ho ucciso io! Alberto! Signora! Non l'ho ucciso io! No! Giuseppe Sansonna. Buongiorno a tutti, buon Natale, Giuseppe. Sono commosso come te. Questa giornata non mi sembra occasione migliore per intingere fino al gomito le nostre mani che già grondano di sangue innocente, di film, di anni e anni di cui abbiamo parlato insieme, del cinema natalizio. Il cinema natalizio secondo me si divide in grandi filoni, improvviso adesso, non ci avevo pensato prima quali sono. Sono quelli classici, i film che parlano di Natale, in cui c'è Babbo Natale, i piccoli aiutanti di Babbo Natale, ci sono i barboni che il giorno di Natale trovano improvvisamente la ricchezza, ci sono i cattivi che si accorgono dei poveri e via dicendo. Poi ci sono i film che vogliono fare i cattivelli, ridono su quelli che sono i sacri simboli del Natale, di cui tutti noi ci siamo cullati nella nostra fanciullezza, giovinezza, adolescenza e via dicendo. E poi esiste il film per Natale, che è un film vagamente ambientato in un Natale inesistente, un Natale parallelo, Natale a Cortina, Natale alle Maldive, Natale alle Seychelles, Natali che più che concreti sono i Natali onirici di quelli che non sanno più come trascorrere nella maniera classica questo tempo, perché hanno perso le loro radici coatte, le loro radici campagnole, le loro radici bottegaie, quindi come protagonisti cinepanettoni vanno verso paradisi esotici. Ecco, questa clip che abbiamo ascoltato a quale genere appartiene? È paradossale perché è il tentativo di smarcarsi dalla grossolanità perpetrata negli anni dei vari Boldi, De Sica, riverniciandola con un po' di cultura, con questo film di Alessandro Genovesi, si chiama Il peggior Natale della mia vita ed è prodotto dalla Colorado Film e da a Batantuono, ma anche la faccia da bravo ragazzo di sinistra di Fabio De Luigi, però di fatto ricasca nel greve, nel boccaccesco ritritato, ovvero si piscia dentro, dentro il tacchino. Scena, Cioè c'è un tacchino messo dentro una ceramica e guarda caso va via la luce proprio in quel momento e De Luigi compie la sua menzione irrorando il tacchino della vigilia con appunto... E perché lo fa? Perché sbaglia, perché è imbranato e quindi poi cadrà l'urina per terra e scivolerà a Batantuono sul parquet cadendo. Insomma, le gag sono le solite, sono un po' più anemiche perché sono un po' più di sinistra e quindi questa è la riproposizione, paradossalmente è identica al De Sica Boldi che per 40 anni quasi abbiamo visto, di cui ci siamo riempiti gli occhi a Natale. Del quale naturalmente non possiamo che dare un assaggio, visto che il cinepanettone, una volta che noi per 2 anni abbiamo sancito la morte, la fine di questo genere, ma in questi giorni, in queste ore, in questi istanti, gli spot pubblicitari dell'ultimo cinepanettone ci dimostrano che non è finito il genere. Come mai non è finito? Non può finire perché fondamentalmente l'Italia assomiglia a un cinepanettone sempre più marcescente e quindi forse è questo che la conferma, questo specchio distorto diventa sempre più fedele, mimetico e quindi... Però sì. C'è stata come la pretestosità di creare il cinepanettone che non fa parte dei cinepanettoni, anche i soliti idioti fanno un loro film che non è un cinepanettone ma è una attenta critica di costume alla società italiana nel suo evolversi così, ma a tutti gli effetti un cinepanettone. Sì, infatti si è passati dal sorpasso a In viaggio con papà, con sordi, fino ai soliti idioti, che secondo me è la spirale finale, soprattutto in questa ennesima riproposizione cinematografica, si svuota di carica corrosiva e diventa sempre più una volgarità così corriva. Papà, che vuoi fare? Papà! Cosa c'è, Titti? Che fai? Oh bella, cosa faccio? Scio, no? Non vedi? No, papà! Ma che ridi tu? Fa un rocher anche lei? Per bacco, contessa. Siamo pronti per la discesa? Siamo pronti per la discesa? Via il primo! Prego, prima lei. Come la vuole? Via il secondo. Via il terzo. Ancora non si parlava di cinepanettoni, ma già si parlava di film adatti comunque ad essere visti in un'unica visione, perché una volta non è come oggi che il film lo vedi all'infinito attraverso i vari supporti, la rete. Oggi ho visto che i film di prima visione, c'è un fantastico sito clandestino e puoi vederli, bruttissimi, registrati con l'iPhone e con le teste delle persone sedute davanti, però i film di prima visione li vedi all'istante, il giorno dopo. Beh, allora si vedeva una volta, si andava tutta la famiglia infiocchettata al cinema il pomeriggio, si rideva, si scherzava, si mangiavano non certo i popcorn che non erano ancora dell'epoca, ma cose analoghe, non ricordo quali tipo di bruscolini. In Umbria andavano i semi salati, erano semi di zucca salati, non so se esistono anche da queste parti. Sì, sì, anche in Puglia si vendeva. È bello che si sputacchiano per terra, fai un bel mucchietto di bucce dopo aver visto il film. Certo, e allora accadeva quando si guardava Vacanze d'inverno, che era un film di Camillo Mastrocinque del 59, l'archetipo dei film di Natale, dove Sordi interpreta questo ragioniere arrampicatore sociale a modo suo, e qui si anticipa di gran lunga Fantozzi, perché lui cerca di fare questa sciata con questi aristocratici ed essere alla pari, si schianterà contro gli alberi. Una scena che verrà ripetuta all'infinito, sempre più volgare, la classica sciata con schianto su albero, è proprio un cliché, uno dei topoi classico del cinema natalizio. Solo che ecco che nel cinepanettone c'è una sorta di divaricazione antecedente dello sciatore, antecedente all'impatto, che l'impatto che, accompagnato da una sonorizzazione di vetri infranti, di cristalli rotti, allude a una sorta di rituale, ma quanto traumatica e dolorosa castrazione del protagonista. Pronto? Alberto? Pronto, mi senti? So io, so Virginia. Virginia, sei inopportuna e crudele, mi hai interrotto una danza di sogno. Ma Titti, dove sta Titti? Titti? È qui vicino a me, sotto l'occhio vigile del babbo. Perché non ce la passo? Perché non mi va di passartela, va bene? Sono al tabarè, Virginia, c'è il fiorfiore dell'alta società. Tu non puoi capire, Virginia, sei troppo meschina tu. Ma come, mi chiami meschina la notte dell'ultimo dell'anno? Mi hai chiamato meschina? Meschina? Virginia, tu hai sempre sbagliato tutto nella tua vita. Non mi hai compreso, non puoi comprendere le mie ambizioni, sei una gretta. Ma te faccio parlare con zio Carlo, ma te faccio arrangiare da lui. Qua c'è già un'anticipazione in realtà di quello che accade quando le famiglie, poi ne avremo una fantastica e forse la più sublime realizzazione, tutte le famiglie quando ci si riunisce per Natale. All'inizio ci si fa regali, ci si vuol bene, ma il Natale è un grande rivelatore di mostri nascosti. In questo caso cosa accade? No, in realtà qui c'è, è sempre Vacanze d'inverno, il ragioniere Sordi chiama a casa Un'altra delle tematiche tipiche dei cinepanettoni è il confronto sociale, per l'appunto. Cioè, lui, ragioniere, che come nell'archetipo del conte Max vuole uscire dalla sua condizione sociale e accostarsi all'alta società, e lo spazio della vacanza, lo spazio del Natale è il momento in cui le classi si incontrano in questi luoghi che sono, certo, magari quando, le feste. Quando uno sniffa il pelo di Cincillà, ripensare a ciò che lascia dietro le spalle è un po' difficile. È un po' mesto. Infatti è questo appunto la smania di uscire, l'arrampicata sociale già anticipata qui in toni più lievi, ma poi diventerà sempre più volgare. Spence Ben è l'antitesi di ogni tradizionale sogno natalizio. Il sogno natalizio sono i poverelli che improvvisamente verranno illuminati da Dickens. Qualcuno, dickensiani, e hanno scende su di loro come pioggia benefica finalmente l'animo ammorbidito. Io la vedo così. In realtà è il contrario, il morto di fame che tocca e lambisce in un momento vacanziero felice l'alta società e ha questa sorta di rimorso, come quella famosa pubblicità delle crociere: non gli va più di stare nella bagnerola col rubinetto che sgocciola pensando alla vasca multimassaggio. Chi vorrebbe con cromoterapia? Certo, nessuno. Bueno, puoi volare l'occhio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Cos'è, il nuovo record stagionale? Esatto. Ti dirò di più, se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore. La vedo dura. Qui per ritirare la chiave toccherà stare in lista d'attesa tutta la mattina, vedrai. Ma quale lista d'attesa, testa? Io ho il passepartout qui. Questa è la testa della fresca latta. Tu stai vicino, mi segui e non prendi le iniziative, vamos. Quanta nostalgia in questa voce. Questo è il sommo Guido Nicheli, il vero Pietro Bembo della nostra contemporaneità, che ha anticipato in gran lunga poi il linguaggio e gli anglismi delle varie Minetti, delle varie Fornero, i vari Ciusi, i vari Briffare, insomma questo... Suol dire che lui sia il vero padre ideale della Minetti. Totalmente. Da Alcumenda non poteva che nascere una figlia così, diciamo, con tutto il rispetto. Certo, cioè, soprattutto dal punto di vista linguistico, qui appunto questo intervallare col nuffing, citare Alboreto, citare la Formula 1, e soprattutto c'è l'arroganza con cui dà una 100.000 di mancia al cameriere e dice: guarda come è andato via scodinzolando l'animale. Quindi il sano sprezzo di classe esibito come tale senza tanti infingimenti. Questa era la grandezza di questi film e di Nicheli. Anche perché, diciamo, era manicheo, non c'era possibilità, non ci doveva essere redenzione, perché anche nel film di Natale l'unica redenzione è quella che si celebra per l'umanità. Quindi nel film di Natale il cattivo deve essere cattivo, non è che deve trasformarsi in re mago anche lui, non è possibile questa cosa. Achille Corea, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Allora Achille, mi dicono voci molto informate che te in realtà da generazioni, dalla tua più tenera età, passi il Natale indivanato davanti alla televisione. Beh, qui parlo da meridionale, ma credo che poi sia una cosa che tocca diverse regioni d'Italia. Il Natale è anche quel momento in cui si passano le ore tra il divano e il desk, con questi pranzi che diventano merende e poi sfociano verso le 19, in quel momento in cui qualcuno ha anche l'ardire di dire: forse stasera non ceniamo. Il fortunato è quello che ha la sala da pranzo e il salotto nello stesso locale, che quindi può mangiare rimanendo steso sul divano, allungando la mano sulla coscia di tacchino. Sì, e appunto intrattenendosi con dei grandi classici che poi sono più o meno sempre gli stessi, così come a Capodanno è immancabile l'appuntamento col concerto di Vienna con tanto di battimani su Radeschi. Che a casa a tutti, Natale, anche le vecchie battono le mani, no? Quando sì, c'è la marcia finale, agigolando. Sì, sì, che fa favorito anche dall'alcol, se vogliamo dirlo, che poi tutti si concedono. E poi c'è, comunque ci sono anche a Natale più o meno gli stessi film che ritornano, grazie anche alla programmazione non particolarmente originale delle varie televisioni satellitari. I classici quali sono? Guarda, io ho, diciamo, distinto tre filoni. Ci sono ovviamente i cartoni animati. Tornano come sempre i classici di Disney, La Bella e la Bestia e tutte quelle cose anche un pochino più raffinate. Però Achille, tu ti rendi conto quanto ormai di vetusto ci sia nell'idea dei programmatori? Ora, tu hai citato La Bella e la Bestia. La nostra generazione l'ha visto una volta nella vita, capito? Perché andava al cinema. I miei figli l'avranno visto tipo 3.000 volte a testa e ancora ogni tanto dall'iPad, se gli va di vedersi qualche vecchio cartone animato per avere una lacrimuccia di quando erano bambini, vanno e ne trovano quante versioni vogliono. Che senso ha riprogrammarlo in televisione? probabilmente, diciamo, è un tic del Natale riprogrammarlo, ma forse sapendo anche che per i vecchi, per questo... i vecchi allo stato cateterico che ormai lo fanno, non per i bambini. Ma no, infatti i cartoni animati ormai sono una scusa per i bambini, ormai sono chiaramente un genere che guarda più l'adulto o il non più ragazzino con una certa nostalgia per ricordarsi, per potersi beare di questo momento. Diciamo che va incontro alla demenza senile, a un certo punto quando siamo tutti rimbambiniti guarderemo La Bella e la Bestia con la dentiera nel bicchiere. Come se fosse la prima volta. Certo, come se fosse la prima volta, sì. Assolutamente questo. Sì. Poi ci sono anche altri film, diciamo, più moderni, ma in fondo anche quelli pieni di effetto nostalgia per tutta la generazione dei 30-40 anni. Ci sono quei film anni 80 proposti e riproposti, tipo Una poltrona per due, per fare l'esempio straclassico, che poi generano anche... Ad esempio, no, raccontaci, perché non hai detto, io ad esempio, tu dici Una poltrona per due, in questo momento nelle mie sinapsi avvizzite non trovo assolutamente motivo di non so, di cosa parliamo, fammi capire. Di un film anni 80 con Dana Aykroyd e Eddie Murphy. C'è un povero che diventa ricco e un ricco che diventa povero. L'elemento, diciamo, più americano, più anni 80, è che è tutto fatto per una crudele scommessa, cioè due ricconi annoiati decidono di provare a scambiare di posto un ricco e un povero, il povero è Eddie Murphy, il ricco è Dan Aykroyd, per vedere se riescono ad adattarsi alla nuova natura o, diciamo, se riprenderanno. Tu quante volte l'hai visto questo film? Praticamente ogni Natale che mi ricordi, e da quando ci sono i social network, su ogni Natale sui social network c'è quello che si lamenta, quelli anzi che si lamentano fanno di nuovo Una poltrona per due, ma poi ti rendi conto che lo sta guardando di nuovo. Cioè anche questo, insomma, l'avvento di internet, dei social network, delle connessioni, poi in fondo non cambiano queste abitudini. Il mio sospetto è che... succedano quelle cose per cui uno tira fuori un iPad, tira fuori un telefonino, tira fuori un portatile e dice guardiamo, vi faccio vedere un video su YouTube, ma dopo mezz'ora probabilmente si finisce a vedere degli spezzoni di Una poltrona per due solo su YouTube invece che in televisione. Quell'uomo è un prodotto di un ambiente sottosviluppato. Non ha assolutamente niente che non va, io lo posso provare. Ma come? Ma certo che ha qualcosa che non va. È un negro, Randolph. E magari ruba da quando era ancora in fasce. Trovandosi in un ambiente adeguato e con un adeguato incoraggiamento, io scommetto che quell'uomo potrebbe dirigere la nostra compagnia altrettanto bene che il nostro Winthrop. Hai intenzione di scommettere veramente, Randolph? E suppongo che tu pensi anche che se Winthrop dovesse perdere il suo posto, si ridurrebbe a rapinare la gente per le strade. In effetti, no, ascoltando soltanto l'audio di questi film, mi rendo conto che non possono essere altro che l'Alka-Seltzer del tacchino di Natale. Giancarlo Liviado, buona giornata. Buona giornata. E auguri. Autore delle Ceneri di Mike, editore Fandango, anche tu passerai questa giornata nella contemplazione dei vecchi sani film della tua fanciullezza. No, sì. Sarebbe molto bello ritornare a un modello di commedia forse di qualche anno fa, visto che una delle sensazioni maggiori che si hanno nel vedere i nuovi film di Natale è proprio una sensazione di netto peggioramento anche del linguaggio, insomma quella parola che un tempo era comunque organizzata in un discorso e che oggi volge quasi alla culturalità in certi casi. Insomma, sì, infatti diciamo che... Il rutto è la quintessenza di ogni argomento che esaurisce il Natale è soltanto la fase digestiva del cenone natalizio, questo è l'essenza del cinepanettone. Giuseppe Sansone. Noi siamo tubi digerenti, come diceva Selina, l'umanità ridotta a questo, e il cinepanettone lo sintetizza benissimo, insomma, ripetendolo tra l'altro è da un decennio che i rutti di Boldi, di De Sica, ripetute anche le flatulenze sono ormai la chiave drammaturgica di volta del cinepanettone, l'arco, il climax ascendente di ogni cinepanettone. Volete ordinare, signori? Sì, certo. Vediamo. Filet d'ambon, chevillé au chartichon de champagne. Médaillon de turbotin, saumon de chenille, courgette fumée. Saumon de crème de cigarette, médaillon de turbotin, chartichon, gratin. Pavé de secret, Sardelle, roche de sagnon, sans épices de valet. Cigarette de l'altro, volete la trippa? Ma chi è? La trippa. La gradisco. Quella con i borlotti. Va a trippa. Buona. A trippa. Ah, sì, sì. Salvatore? Sì? Porta quattro trippe a sti signori. Giuseppe Sansonna, siamo perfettamente entrati adesso nel clima cinepanettonico. Questa è la vacanza di Natale 90 che sancisce un ideale passaggio di consegne fra Alberto Sordi, che appunto recupera il suo vecchio ruolo, ma qui fa la parte del maître, vilipeso per tutto il film, che è costretto a ospitare questi cafoni arricchiti, questi parvenu da Satiricon di Petronio, che sono Christian De Sica e Boldi, che addirittura simulano una ricchezza e un lusso. Conoscenza dei vini, delle annate. Sì, sì, poi stendono del sale sulla tavola per poterlo pippare, per mostrare, per fare la vita dei ricchi. I bon vivant che non sono, e quando lui li sente snocciolare il menù in francese con la loro pronuncia triviale, capisce subito che è la trippa la soluzione, il deus ex machina che risolverà appunto, e dà a questi signori, detto con un sublime disprezzo, porta trippa per tutti. Qual è la prima cosa per fare un cinepanettone? I protagonisti di Natale con la cassa saranno simpaticissimi bastardi italiani abbronzati e corrotti a cui piace mettere le mani sulle tette. Popi, capito? E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film? A sbietà, a incassare, a fare i soldi. Oh, qui per esempio c'ho un incipit, potrebbe essere un pezzo di carta, scrivi. L'Italia è il paese che amo. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi dei tuoi primi piani intensi. Melog, la realtà condivisa. Dai, bello, ci vuole molto tempo. Dai. Porta la posata, porta. Attento a non sporcare, Domani gli compriamo una bella musevola. Ma di che razza è? Per me è un incrocio. Per me è un bastardo. Del resto le razze incrociate sono le più forti. Vabbè, ma ragazzi, ma tutto c'è un limite. Da che monto è monto. Attira, attira, attira, il filo si spezza. Riempie la brocca strabocca. Ci dai un dito, si prende l'inquine. E più chi ne ha, più ne metta. Miracolo! Ha parlato! Parla come il cane. Lo imita benissimo, quasi meglio di me. E certamente, so doc. Con originale. Giuseppe Sansonna questa mattina stiamo dando il senso profondo, ma anche bieco e scurrile, di quelle che sono le programmazioni classiche in occasione del Natale. Il Natale, abbiamo già detto, ha avuto varie epoche nella sua rappresentazione cinematografica, ma anche televisiva. Passato il momento degli auguri sotto l'albero, con i regali davanti e tutto, è passato il momento si inizia a guardare come fanno ciò che riteniamo sia la parte più scellerata dell'umanità, ma in realtà siamo noi, con i nostri amici e le nostre famiglie, nel genere cinepanettone. In questo caso cosa era? Qui siamo sempre nelle vacanze di Natale 90 e qui c'è un'interessante operazione linguistica, ovvero Abbatantuono si è già riavviato i capelli all'indietro, ha già dismesso il suo pastiche dei primi anni 80. Sono 22 anni fa. E certo. Ancora parliamo oggi di cinepanettone, 22 anni. Resistono imperterriti come la gramigna. Quindi Abbatantuono fa il muto per tutto il film, ma poi davanti all'emersione di questi nobili sprezzanti verso il suo amico Ugo Conti, che fa il cameriere meridionale, quindi c'è sempre lo scontro di classe, ma simulato da questo teatrino di macchiette con gli aristocratici tutti con la puzza sotto il naso, col sopracciglio alzato, però banalizzati nella macchietta, lui sbrocca e riprende la parola, riprende la sua antica parlata da Terruncello pugliese trapiantato al nord, e quindi fa la scena madre in cui insulta tutti gli aristocratici e si porta via l'amico e vanno via. Cioè la classica antitesi rappresentata negli ultimi cinepanettoni da Ghini, che è un professore cattedratico, e De Sica dentro la vasca da bagno sulla crasi. Hai fatto una crasi? No, non vedo le bollicine. Ecco, esattamente questo. Cosa ne pensa Giancarlo Liviano? Ricordo che è uno scrittore, autore delle Ceneri di Mike, edizione Fandango. Perché è così duro a resistere e sembra che ormai faccia parte della narrativa, non dico contemporanea, ma degli ultimi decenni? Fra un po' saranno 30 anni che gli italiani si rispecchiano nel cinepanettone. Ma io credo che il cinepanettone alla fin fine non sia altro che un grande momento di flusso televisivo che poi viene calendarizzato come evento nel periodo natalizio. Questo, per capirlo, basta pensare anche al casting che va sempre più a pescare all'interno del mondo della televisione, e già lo faceva anche 20 anni fa. Io mi ricordo che... Cioè io penso che fra 2 o 3 anni sarà Natale all'ospizio. Visto Boldi nel backstage dell'ultimo cinepanettone, era abbastanza impressionante, ma il tempo passa per tutti noi. No, il fatto è probabilmente che il problema è che il cinepanettone è diventato una condizione permanente, mi pare, insomma, della vita pubblica di questo paese. Finito lo spettacolo del cinema, chi è andato a vedere il cinepanettone può tornare a casa, accendere la televisione e continuare a vederlo guardando una tribuna politica a Domenica In, oppure vedendo qualsiasi varietà o qualsiasi altro programma televisivo, insomma. Allora, su Achille Correa, ma se sta in piedi il ragionamento di Giancarlo Liviano, dov'è l'irruzione della differenza, del clima della festa, dello straordinario che noi invece riconoscevamo nei film natalizi e guardavamo per Natale? Se la vita è un cinepanettone, qual è il senso natalizio di guardare il cinepanettone? Beh, in realtà è un problema filosofico profondo, Io in realtà stavo pensando, ascoltandovi, che non dobbiamo dimenticare che c'è qualcosa di scientifico in 20 anni di cinepanettone. Cioè, loro sono stati bravissimi a scegliere ogni anno delle località in base alle località che potevano essere esotiche ma comunque raggiungibili. Mi ricordo che De Laurentiis disse che lui voleva fare da anni il Natale in crociera, ma l'aveva fatto solo quando si era accertato che comunque la crociera fosse una cosa alla portata e nota a una buona parte degli italiani. Guarda, me lo chiedo perché gli americani, quando fanno i loro, diciamo, corrispondenti di cinepanettoni, le loro commedie, hanno sempre questi pupazzi che si animano, questi miracoli sulla 34esima strada, questo elemento magico, e noi ci abbiamo sempre Abate Antuono che per la scena meravigliosa, secondo me, fa il terroncino, oppure abbiamo appunto Boldi che scende in discesa libera su una tazza del cesso. È una domanda forse troppo profonda, sinceramente. Sì, però guarda, posso dire una cosa? Io, con tutti i miei limiti e i miei angusti orizzonti mentali, ancora se penso alla scena, che ne so, del gatto gonfiato di Ghini De Sica in Natale a Rio, che vola e la brasiliana lo vede, riconosce la mia gattina e tutti i doppi sensi, ancora mi viene da ridere, la riguarderei 100 volte. Giuseppe Sanzon. Ma io rispondo ad Achille: gli italiani non credono a niente, non hanno mai creduto a nulla, figurati se credono al mondo di Frank Capra, a quelle dolci illusioni in cui a Natale tutti sanno della tua povertà e ti vengono a portare un regalo. Soprattutto che la vita sia meravigliosa, anche se lo sappiamo non lo diciamo a nessuno, certo, mai farsi invidiare. Certo, l'italiano preferisce crogiolarsi appunto in una replica Milano-Romocentrica del duo De Sica, Boldi, per quanto sdoppiato, per quanto proliferato e appunto moltiplicato in tanti epigoni e tanti replicanti, però preferisce quello perché quello lo rispecchia e quello lo conforta. Achille Correa stava finendo di fare la tipologia dei film di TV a Natale. Ci eravamo fermati a Una poltrona per due. Andiamo avanti. Sì, diciamo che oltre ai cartoni animati, che insomma ormai sono dei classici non solo più per bambini, e alle commedie anni 80 americane, insomma rappresentate bene da Una poltrona per due, io volevo sottolineare che c'è un'altra cosa che rappresenta il Natale in televisione, per quanto con una strenza tutta italiana, che sono le puntate natalizie dei telefilm americani. Cioè, per gli americani il Natale è una cosa che si fa vedere anche nelle sitcom, nelle serie TV. Io ricordo una splendida puntata natalizia di AR, con tutti in ospedale bloccati e Babbi Natale che erano caduti. Per questo hanno interrotto Walking Dead all'8ª meravigliosa puntata, che gli zombie a Natale non possono essere rappresentati. Sì, perché ricordiamo, tra l'altro, gli americani quando girano le serie TV li girano abbastanza a ridosso della messa in onda, quindi hanno sempre molto ben presente in che momento andrà in onda quella puntata specifica, diversamente da come accade di solito in Italia, che girano per un imprecisato momento tra 3 anni. Sotto casa mia c'era il set di uno sceneggiato italiano, una serie breve per la televisione italiana Rai. Facevano la neve, era quasi Ferragosto. Ho detto: non potranno venire qualche mese fa, che c'era veramente. Mi piace molto che tu lo chiami sceneggiato comunque. Beh, io indica... ho 60 anni fra qualche anno. No, ma indica anche il tipo di fiction che abbiamo in mente in Italia. E quindi ci sono grandissime, bellissime puntate natalizie nelle sitcom, nelle TV, nelle serie TV americane. Il problema è che in Italia, per motivi che mi sfuggono... No, perché scusa, tu vuoi chiamare fiction quella roba con quei cadaveri mummificati che producono nella televisione nazionale italiana? Non stai parlando di Walking Dead, suppongo. No, cioè, no, no, magari Ricky Tognazzi Tortora, meraviglioso, cose del genere, sì. Sembrava Max Tortora quando faceva Derrick, sembrava, c'era un cortocircuito straordinario. Sì, un problema italiano della TV italiana è che per motivi a me ignoti non riescono mai a mandarli in onda nel momento giusto. Ci sono meravigliose puntate natalizie, non so, dei Simpson o di Big Bang Theory o appunto di grandi classici come Harry House, che vanno in onda ad aprile e a maggio, mentre poi quelle, che ne so, di Halloween vanno in onda il primo gennaio. E lì per fortuna la rete ci viene incontro, pirateschiamente la gente scarica e vede al momento. No, grazie giusto. A Dio nei canali della Fox per Halloween c'è tutto il, a parte Simpson, i più belli sono, in cui la piccola Simpson diventa un polipo, in cui Bart ammazza la madre, che sono giustamente messe nel punto giusto. Giuseppe. Ma io ricordo un meraviglioso spot di Romanzo criminale della serie in cui appunto questi ceffi della banda della Magliana stanno torturando a morte qualcuno, poi arriva uno con l'albero di Natale, si fanno tutti gli auguri e lasciano il torturando da solo in questa stanzetta, rimandandolo a dopo l'Epifania, insomma la sua uccisione. Quindi c'è anche un nostro mettersi a sincrono. Ecco, vuoi mettere lo spot della supposta evacuazione effervescente mandata nella seconda fantastica senara delle serata delle primarie del PD? Fa parte ormai di mesi fa, però una metafora. Fu una metafora fantastica. Prego, scusami, puoi andare avanti, Achille. No, no, era questo comunque, volevo dire che ci sono, insomma, noi ormai siamo cresciuti negli ultimi 20 anni anche a botte di grandissime immagini natalizie americane, che poi alla fine, come accennavate prima, vengono tutte da Dickens. Io vorrei avere un euro per ogni rifacimento del Canto di Natale di Dickens, che è stato rifatto con Topolino, con i Jefferson, con il Dottor House, con chiunque, ormai qualsiasi serie di una certa lunghezza, qualsiasi cartone animato ha la sua puntata ricavata dal Canto di Natale di Dickens, e quello ormai siamo, è vero, non ci riconosciamo noi italiani, ma fuori di vederlo, per noi quello è Natale, ecco. Andiamo avanti. In un paese straniero dove non conosci la lingua, tranne la mia. Non ti preoccupare, quello è un letto per dormire, lo trova di sicuro, capirai? Me la ciulano. Avvocato, me la ciulano, me la ciulano, me la ciulano. Oggi chi? C'è nessuno a casa? Aprite che mi sto a cagare sotto dal freddo! M'ho chiesto qua. Scusi, ma che fa? Cosa grida? Bravo, chicco, fammi entrare qua! Che mi sono fatto nuova cortina in 4 ore e 6 minuti! So proprio che è sconvolto! Ma spenga quella musica! Ma che te piace la tecne, o senti che roba? No, non ci piace. E poi qui c'è gente che sta ancora a letto. Stanno a scopare, eh? De mattina, ma come gli va con sto freddo? Oh! Ma che modo di parlare? L'ambientazione è sin troppo facile capirla. Siamo a Cortina, qui c'è Enzo Salvi che arriva, e appunto qui siamo all'estremizzazione di quei concetti sempre più banalizzati, semplificati e brutalizzati. C'è il coattone che incontra i due, il Christian De Sica che replica tristemente ancora una volta il padre Vittorio, facendo l'aristocratico sempre più manierato, sempre comunque più... Vedi, ha ragione Achille, è sempre una sotto infima lettura del concetto di Chesiano, c'è chi può e c'è chi non può. Sì, in Italia viene però la collisione, viene mostrata in tutta la sua brutalità, però senza con una critica sempre molto velata e banalizzata sostanzialmente. Il conflitto di classe diventa sempre più uno scontro fra pupi che fa ridere della volgarità, ma è la macchietta che è importante. E non, sono pieni, poco sfumati, poco pieni di dettagli, che sono il reale sale della commedia, e sempre più banalizzati e semplificati, quindi per un pubblico catatonico. Sì, e manca totalmente, radicalmente, anche seppur mossa da intenti biecamente commerciali, la finalità catartica. Sono film che rappresentano una realtà tout court, la irrigidiscono, immobilizzano, la ghiacciano, ma alla fine non si capisce perché Natale. Qual è il senso del Natale? L'unico senso del Natale è quello che lo è laicamente, drasticamente, in maniera schifosamente consumistica, prendere, partire, andare in un posto nella casa nostra per dire abbiamo fatto la botta di vita a Natale. Melog. La realtà condivisa. quest'anno a Natale ci si ammazza dalle risate. Cossa le porto. Auguri! Il film più atteso dell'anno. Come prima lezione ci facciamo un bel fuoripista. Mortacci vostri! So che la radio avrà un senso dirompente e fastidioso molto di più di quanto passi senza che nessuno se ne accorga in televisione. Ma ripeto, questo è lo spot di quest'anno dell'ultimo cinepanettone. No. E quindi, questo è Natale al cesso, ovvero la parodia che Maccio Capatonda fece dei cinepanettoni, ovvero è un'operazione critica su, ma che in realtà non può che rispecchiare, prendendo appunto il tuo equivoco e sintomatico. Rimasi colpito anch'io e caddi nell'errore. Perché semplicemente hanno rimontato quelli che sono i must, quelli che sono i punti di incandescenza della struttura del classico cinepanettone, ovvero il rutto, la bestemmia, lo schianto testicolare contro, sì, ma cosa vogliamo fare, contro la conifera. Vogliamo fare noi quelli che dicono che in realtà è una nobile arte, un'espressione sublime e profonda al cinema, che questa è semplicemente una parodia del cinema, che in realtà certe occasioni andrebbero usate meglio? Achille Corea. Ma io credo che... tu non ti diverti a guardare cinepanettoni, cioè è inutile negarlo. Ma guarda, io... è la parte peggiore di noi. Lo dico sinceramente, alcuni non mi hanno fatto proprio ridere. Io penso che forse un senso di liberazione potrebbe essere uscire dallo schieramento e dire alcuni fanno ridere, altri fanno meno ridere. A me sinceramente alcuni degli anni, diciamo, 2000 li ho visti con grande fatica, non mi hanno strappato nemmeno un sorriso. Su alcune cose, come Abate Antuono, che telepaticamente parla con Ugo Conti in pugliese e si capiscono parlandosi in pugliese tramite dei poteri telepatici tirati fuori così in quel momento, mi fa ridere tuttora se lo rivedo in televisione. Forse il problema è che, come dicevi tu prima, sono 22 anni che ne parliamo e forse dovremmo anche superare quest'idea che debbano essere accettati o in toto o rifiutati completamente come genere. Ce ne saranno in toto no, assolutamente. Però ormai è talmente palese e conosciuta e ripetuta l'aspetto scellerato, che ogni volta che vedo la scena del marito che incontra moglie e l'amante assieme e esce dall'ascensore salutando tutti e due, quindi è un escamotage che poi nella vita concreta è impossibile realizzarlo, sfido chiunque a farlo veramente. Eppure De Sica riesce sempre bene, lui riesce sempre a fare questa cosa che, incontrando moglie e amante, riesce a far credere ognuno o che suona la canzone per lei o che saluta lei o che ama lei. Giuseppe Sanzoni. Ma quella che Achille ha citato è un'arguta scelta di sceneggiatura, è un'invenzione, una trovata che comunque dà dinamica, dà sale, spiazzante, cioè la telepatia in pugliese è c'è un lavoro, c'è un cesellare la sceneggiatura in qualche modo nella direzione della commedia. Quando si banalizza, tu hai citato invece la pochade ripetuta e disossata, semplificata, banalizzata all'osso, e forse la ripetizione, come ai bambini quando gli si ripete sempre la stessa favola e vogliono che gliela si ripeta, però l'età mentale dell'infanzia è protratta fino alla morte, fino alla senescenza in Italia. Nel cinepanettone devi mantenerti un'età mentale che è quella prima dello sviluppo, chiaramente, se no non li puoi guardare. Se ti senti adulto non puoi andarli a guardare. Anche se è il catetere ormai, sì. Assolutamente, assolutamente. Complimenti, bravo. Però vedo che anche lei è capace, eh? In cosa, scusi? Ma come, appena riprodotto il verso della tigre maschio in amore prima della copula? Ma non dica stupidaggini, io non ho riprodotto proprio niente. Ma non faccio il modesto! Adesso sto imitando il tipico gemito che precede l'accoppiamento. Lei sa imitare il verso della tigre femmina in calore? Beh, mi chiede un pochino troppo, però ci posso provare, eh? Allora lei rimane qui, accucciato, non si muova, si metta colombrina, pecorina, come preferisce, e non si muova fino a quando non glielo dico io, qualsiasi cosa succeda, d'accordo? Dove va? Dove va? Si fidi. Mi fido? Sì. Ho capito. Dada! Questo naturalmente il film non l'ho visto, ma immagino che c'è uno stupro violento da parte di una tigre attizzata sul povero Boldi, faccia l'imitazione della tigre in calore. Beh, è una bella idea, divertente, cioè, come scherzo. Se gli americani sognano nella loro surrealtà che arrivino angeli a salvarci, noi italiani il surrealismo bretoniano lo decliniamo appunto con questo macismo. L'effrazione del tigrone verso Boldi. Sì, ma il delirio nostro, appunto lisergico, ci porta a immaginare che questa tigre possa penetrare appunto Boldi solo perché ha un costume da tigre, insomma, e non accorgersi che non sia un esemplare femmina di una tigre siberiana, indiana, che sia. Giancarlo Liviano, siamo andati oltre nell'approfondimento del genere. Vedi all'orizzonte qualcosa che possa sostituire questa nostra crassa maniera di sentirci ogni volta infami, sottosviluppati, degenerati, ma ancora poi tanto teneramente bambini? La sensazione è che comunque, visto che anche, mi pare che anche la scorsa stagione il Cinepanettone non abbia riscontrato poi a livello di botteghino il solito riscontro di tutti gli anni precedenti, quello che mi sembra è che si vada un po' diversificando l'offerta. Adesso c'è il Cinepanettone leggermente più agganciato all'altro tratto tipico dell'italiano, cioè quel sentimentalismo, quello che punta a far passare una certa integrazione razziale clichettata. Che figlio è del Lacrima Movie alla fine. Esatto. Oppure anche la parodia politica, che lì veramente c'è la sensazione di non capire qual è la differenza tra, ad esempio, come in albanese, che per l'ennesima volta ritorna con la parodia di un politico che potrebbe essere tranquillamente un Fiorito o qualcun altro che occupa realmente la scena politica italiana. Ma qui accade come quando Guzzanti faceva l'imitazione di Funari, che ridette vita al Funari che era appassito televisivamente allora. Eccetola Qualunque riviene fuori remotivato da tutta la vicenda del Regionopoli, delle maschere di maiale, di Fiorito e via dicendo, Giuseppe. È perfetta l'analisi di Giancarlo, infatti è questo, è la realtà che ormai è talmente più grottesca di qualsiasi sua rappresentazione che la rappresentazione stenta, arranca dietro. Neri Parenti, in questo film, io ho intravisto Colpi di Fulmine, invece, che il classico re dei cinepanettoni, ha voluto inserire due geni del linguaggio come Lillo e Greg, ha cercato di smarcarsi, fa un salto verso l'alto perché appunto si rende conto che il prodotto è usurato e che quindi in qualche modo bisogna rinnovarlo. Sì, per lanciarlo sotto anche in inventare che ha avuto la scomunica per un suo vecchio film, perché c'era la famosa scena del di Boldi che sciando in coccia con il Papa che sciava con le guardie svizzere, dice: questa scena mi è costata la scomunica. L'hanno smentito, dice: ma figurati se noi pensiamo a dare la scomunica a un filmaccio. Però serviva per dare ancora esistenza di scandalo a qualcosa che non scandalizza più nessuno. Achille, che ne pensi? Guardate, citavate Colpi di Fulmine, voi all'inizio avete detto che poi alla fine nel film di Natale cosa c'è? Il barbone che diventa ricco, il ricco che diventa povero. Cosa c'è in Colpi di Fulmine con Greg e Lillo? C'è l'ambasciatore che deve fare velocemente un corso per diventare un coatto, perché si deve mimetizzare tra i coatti per poter conquistare una donna che non guarderebbe un ambasciatore, perché sarebbe troppa la differenza di censo, di classe. L'offerta si diversifica, l'impressione è che proprio comunque da certe cose non si scappa. I film con De Luigi sono molto ispirati ai film con Ben Stiller, che deve conoscere i genitori e ne combina di tutti i colori, e i film insomma con De Sica hanno sempre dentro qualcuno che fa emergere il contrasto tra ricchi e poveri. Insomma, le cose sono sempre più o meno quelle. Appunto, forse Albanese è qualcosa che si discosta. Ecco, io però adesso vi voglio far sentire, proprio quasi in conclusione, qualcosa che secondo me rappresenta il vero spirito del Natale. Un film che non ha avuto antecedenti e non ha avuto nemmeno imitatori. Un film unico nel suo genere. Qui secondo me c'è una sola persona che può occuparsi di loro, una e basta. E secondo me questa persona sei te. Ma come ci hai potuto pensare? Con l'esaurimento nervoso che mi arriva fino alla cima dei capelli, la corrente spastica, e tu mi vieni a dire di prendermi cura di questi due poveretti. Ma come ci hai potuto pensare? L'anno scorso papà ci ha operato la vescica. Chi c'è stato a fare le nottate in ospedale? Io sola. È il film Parenti Serpenti del 92 di Mario Monicelli. Un film fantastico in cui una coppia di anziani genitori di Sulmona raduna sotto l'albero figli, figlie, cognati, nuore, via dicendo, e dice: lasceremo la casa ai nostri averi a quello che di voi si occuperà di noi. E qui nasce un problema, una grande commedia degli inganni. Si scopre tutto il peggior sostrato che sta dietro le famiglie felici. Un figlio si ingroppava la moglie dell'altro figlio, un altro figlio improvvisamente dice: io sono gay, mi piacciono gli uomini, diciamo usando un termine edulcorato. Si trovano le peggio cose e alla fine nessuno volendo pur tutti l'eredità, vuole accollarsi vecchi genitori. Sarebbe l'atto di giusta pietà e carità filiale. E cosa fanno alla fine? Li fanno saltare in aria con la bombola del gas. Gli sabotano la bombola del gas e la mattina dopo loro stanno tutti nel caffè ricco di Sulmona a prendere il caffè, parlando del più e del meno, e i due vecchietti saltano in aria. Giuseppe, tu che ne dici? Oggi sarebbe improponibile, troppo crudele, troppo feroce, il troppo realistico. Troppo però. Realistico il disincanto di Monicelli. Cioè, siamo in Italia in cui all'ordine del giorno mariti accoltellano moglie e ammazzano figli. Eppure appunto la commedia non ripropone sempre quello, ripropone sempre la bestemmia, quella di Christian De Sica, non guarda il dettaglio, non guarda le sfumature, non guarda le relazioni fra tipi umani, che invece Monicelli sapeva cogliere molto bene. Questa è stata la sua più grande virtù. Non sei d'accordo, Achille, anche te, che sulla crudeltà in realtà insita in questo re dell'azione familiare di Natale nessuno ha più voluto impegnarsi? Guarda, c'è stato un tentativo, sicuramente non all'altezza, ma qualche anno fa uscì un film che si chiamava L'ultimo Capodanno, tratto da un racconto di Ammanniti, ed è un film che è rimasto come un emblema di quanto può andare male un film, perché nonostante un cast, andò malissimo, sì, e compagnia bella, rimase in sale 5 giorni. Eppure, visto in televisione, era un tentativo di mostrare quanto il Natale può essere crudele, grottesco, il Natale Capodanno, scusate, in questo caso, comunque le feste in generale in famiglia possono essere crudeli, grottesche, ipocrite e cattive in senso cinematografico. Visto che oggi è una giornata così bella, vi voglio anche dire una cosa importante. No, abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere, li vogliamo passare più vicino a voi. Oh, questo è un'idea. Basta vivere sempre da soli. Oh, sì, ma finalmente. Dico, io in 15 anni che sono sposata sarete venuti in casa nostra, che so io, un paio di volte al massimo. Sì. Ma se non aspettavamo altro, vero, Gino? Sicuro? Che bello Natale! Hai sentito, Sarè? E io pensavo che voi non ci volevate. Che bella consolazione a tenere dei figli come voi! E adesso si pone il problema con chi andare a vivere. Io vi dico subito che a me quella zingarata di passare dall'uno all'altro dei figli come pacco postale, per carità, ma non sempre fatte ridere, ma che? Giri di qua, di là. Perciò ho pensato che sarete voi a decidere. Io so che da me nessuno si aspetta qualcosa di buono, però io mi auguro che in realtà sotto il vostro albero di Natale, davanti al vostro tacchino, almeno per quest'anno, non vengano fuori tutte quelle normali e naturali e comprensibili asprezze che fanno sì che ogni famiglia italiana tale possa essere considerata fino alla fine dei nostri giorni e dei nostri cinepanettoni. Grazie Sansonna, grazie Achille Corea, grazie Giancarlo Liviano, grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, e ci sentiamo dopo Natale.